Ricordate, la forza è uguale alla massa moltiplicata per l'accelerazione gravitazionale, quindi è uguale alla massa moltiplicata per 10. Sapete già che la forza richiesta è di 4.500 newton. Di conseguenza, otteniamo questa formula. 4.500 è uguale a massa per 10. Ora, vi basta solo ricavare la massa.